nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 25 febbraio, il sole in regione è sorto alle 6.54 e tramonterà alle 17.47. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. I titoli. Presentati i risultati delle sperimentazioni orticole 2023 dell'ERSA per pomodori, sedano rapa, asparagi e zucche. Mitra iside alla Quaresima, il titolo del corsivo di Licio Damiani. Il ritorno delle carrube e dei loro nuovi e sorprendenti utilizzi alimentari. L'avvio della fermentazione, momento delicato nella preparazione dei vini. Il secolare faggio di Dordolla per la rubrica dei grandi alberi. La Lubianska, una nostra Wiener Schnitzel con tante varianti di questa cotoletta. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsione del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. A Villa Manin di Passariano si è rinnovato il tradizionale pomeriggio orticolo, appuntamento giunto al 25esimo anno. È stata l'occasione per presentare i risultati più significativi emersi nelle prove portate a termine lo scorso anno dall'ERSA in ambito orticolo e allo stesso tempo un momento di confronto e scambio di esperienze tecniche con gli imprenditori. Ce ne parla Costantino Cartivello, tecnico dell'ERSA e, come diciamo sempre, vecchia conoscenza di Vita nei Campi. Asparago, melone, pomodoro, sedano rapa e zucca sono state le specie orticole oggetto delle relazioni agronomiche, mentre una presentazione ha affrontato la problematica degli organismi da quarantena in ambito orticolo e non solo. Su asparago bianco si è fatto il punto su una prova pluriennale tesa a capire se l'aumento della densità di impianto abbia o meno risvolti positivi di tipo produttivo o qualitativo. I risultati emersi confermano ancora una volta quanto osservato negli anni scorsi, e cioè che la messa a dimora di più di tre piante di asparago sulla fila non apporta alcun vantaggio né produttivo né qualitativo. La sperimentazione condotta invece su melone ha fatto il punto sui risultati emersi da una prova varietale per individuare cultivar particolarmente adatte a filiere corte, uno sbocco a cui si rivolgono gran parte delle aziende orticole regionali. Sono state individuate delle varietà che per gusto e caratteristiche della polpa sembrano soddisfare al meglio le aspettative. Nel caso invece del pomodoro, non si è trattato di una prova varietale vera e propria, ma di un test biennale portato a termine in un'azienda isontina su pomodoro cuore di bue e datterino, prova finalizzata a valutare il risparmio idrico ottenibile con una gestione oculata degli interventi. I risultati confermano che, con l'impiego di tensiometri, che sono strumenti tutto sommato semplici e poco costosi, è possibile ridurre drasticamente l'irrigazione, circa un terzo, senza avere riflessi negativi né di ordine produttivo e né qualitativo. Se dovessimo indicare quale fra gli ortaggi rappresenta l'orticoltura regionale nell'ambito nazionale, un posto di rilievo sarebbe certamente occupato dal sedano rapa. È per questa ragione che periodicamente vengono portate a termine delle prove di confronto con altre varietà presenti sul mercato. I risultati ottenuti dalle ultime prove confermano che la varietà Furlan, frutto di una selezione pluridecennale portata a termine da una famiglia di ortolani in quel di Godia, ha confermato in pieno la sua validità in termini di rusticità, produttività e qualità gustative. La zucca. Anche in regione la zucca è tra le orticole che vivono un rinnovato interesse da parte del consumatore. La prova, portata a termine nel 2023, ha interessato cultivar a frutto piccolo, con un peso medio di 2-4 kg, del tipo Delica, Hokkaido o Moscata di Provenza, ed ha preso in esame aspetti legati alla produttività e anche alla conservabilità, aspetto molto importante questo. Tra le varietà esaminate sono stati individuati dei materiali molto conservabili, produttivi e di buone caratteristiche agronomiche. Infine, tra gli aspetti fitosanitari, si è parlato principalmente, ma non solo, di Popilia japonica o scarabeo giapponese, un temibile coleottero inserito in una lista di organismi da quarantena di cui alcuni esemplari sono stati rinvenuti in regione in un sito circoscritto. Sono state condivise le informazioni raccolte e forniti dei suggerimenti al fine di bloccarne la possibile diffusione. Comunque ricordo, per chi volesse approfondire quanto detto, nei prossimi giorni saranno disponibili sul sito dell'ERSA copia delle relazioni presentate. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, raccolti nel volume Vita nei campi, storia, memorie e leggende della campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi proponiamo Mitra, Iside e la Quaresima, in onda il 28 febbraio del 1993. Siamo entrati nell'antico tempo del digiuno e della riflessione. La Quaresima si ricollega all'idea del sacrificio che, prima ancora dell'età cristiana, rappresentava la premessa necessaria alla creazione. Ed ecco allora il mito del dio Mitra che uccide per ordine del sole il toro, dal cui sangue e midollo si genereranno erbe e piante salutari e viti e grano. Ed ecco la dea Iside, la stella Maris, la stella del mare, attributo che il cristianesimo trasferirà alla Madonna, sublimazione di Iside, bianca più della luna, recitava un canto popolare in lode alla Vergine che oggi purtroppo non si usa più nelle funzioni mariane. Ecco la dea lunare, dunque, una tavola sacrificale dedicata a Iside fu trovata anche in Istria, nel cui nome riprendevano le attività sulla terra e sul mare. I lavori in agricoltura, le stagioni della pesca che iniziavano nella nostra laguna proprio ai primi di marzo. Osserviamo qualche scorcio di campagna nell'aria che ha già un sentore di erbe e di primule. Nell'intreccio grafico dei rami ancora sfogli, sullo sfondo dei monti azzurri e nevosi, si disegna il bruno dei campi arati in preparazione delle semine del mais, delle erbe da fienagione, delle barbabietole. Tutto ancora brullo, ma c'è un'impressione di ordine e di attesa, come di luoghi ormai preparati all'evento di una vita che tornerà presto a generare. E nei vigneti e nei frutteti che spiccano sulla terra smossa, i contadini stanno ultimando le potature. Tornano le carrube, un legume molto in uso nel passato che oggi trova sorprendenti utilizzi, come ci dice Cristina Micheloni. Il carrubo è un bell'albero originario di Siria e Palestina, che offre apprezzati servigi quali ombra e rinfresco nelle ore mediterranee più calde, ma anche frutti e semi commestibili. La Sicilia ne è il principale produttore mondiale, mi riferisco alla quantità di semi e polpa di bacello raccolto. I frutti di molte delle più che centenarie piante di carrubo in Sicilia, Sardegna e altre zone mediterranee non vengono nemmeno raccolte, o meglio, non venivano raccolte fino a circa 5 anni fa, quando c'è stata una vera e propria riscoperta del carrubo. Due motivi del ritrovato interesse. Da un lato il fatto che la pianta è molto rustica, nulla chiede dopo la messa a dimora, cresce bene nei terreni aridi e poveri, compresi suoli molto calcarei. Come sempre per i legumi si fissa da solo l'azoto, sta bene al caldo e al secco e grazie a una radice molto sviluppata non soffre affatto la siccità, quindi ideale per i climi che stiamo affrontando. Per contro soffre le basse temperature e in genere non sopravvive alle gelate invernali, quindi da noi stenta nonostante il cambiamento climatico. Dall'altro lato la composizione del frutto, cosa davvero da superfood in termini di proteine, alto potere saziante e bassa quantità di zuccheri, oltre a molte molecole attive e benefiche. Se un tempo i bacelli asciugati, ma non troppo, erano cibo per animali e bambini poveri, mentre i semi venivano utilizzati come unità di misura di oro, diamanti e preziosi, infatti si chiamano carati, oggi la polpa di carruba, pastosa e zuccherina, è utilizzata come sostituto del cioccolato. È considerata proprio la versione ecologica e salutistica del cacao, perché ricorda il sapore del cacao, ma è ricca di fibre e povera di grassi. Come il cacao è fonte di antiossidanti, ma non apporta caffeina né teobromina. In quanto a sostenibilità, abbiamo appena detto della rusticità e longevità dell'albero, nonché della prossimità di coltivazione, cosa che riduce le migliaia di chilometri percorsi dalle fave per diventare cacao, che poi diventa cioccolato e arriva fino a noi. Ma notevole è anche il consumo inconsapevole di farina di carruba, nota come addensante naturale e nascosto dietro la sigla E410. È utilizzato per budini, gelati, creme, salse e confetture. Questo è il vero business che ha riacceso l'interesse per il carrubo. Pensate che in Portogallo si stanno espiantando agrumi per far largo al carrubo. Un'altra curiosità? La densante E410, appunto la farina di semi di carrubo, in inglese si chiama locust bean gum e si ritiene che le locuste di cui si sfamò Giovanni Battista nel deserto fossero in realtà pacelli di carrubo. Chiudo con la mia preferenza, frutti maturi consumati al naturale, separando la polpa morbida e dolce dal sentore di cioccolato, datteri e fichi secchi, dalla buccia, che talvolta è coriacea, e dai semi con cui si possono fare graziosi monili. E con piacere e sorpresa vedo ricomparire le carrube pure sui banchi degli ortofrutta locali, probabilmente grazie alle richieste etniche dei nostri nuovi concittadini. Il professor Roberto Zironi continua nell'analisi dei macerati, oggi focus sui lieviti e sull'avvio delle fermentazioni. Dopo aver scelto i recipienti in cui effettuare la macerazione-fermentazione, questo viene riempito con l'uva di raspata ed eventualmente pigiata. Per effetto della fermentazione alcolica si forma il cosiddetto cappello di vinaccia e la capienza dei contenitori dovrà superare di almeno il 20% la quantità di uve da vinificare. Durante il trasferimento il mosto può essere addizionato di anidride solforosa. Questa operazione una volta era considerata indispensabile per favorire i processi macerativi e per controllare le attività microbiche. Oggi, per effetto delle maggiori conoscenze tecnologiche, non è più una pratica corrente. Per innescare l'attività fermentativa, la massa è inoculata con un mosto in fermentazione o con uno starter avendo una concentrazione di almeno 1 milione di cellule per millilitro. Dopo che una cantina è stata in funzione per un certo numero di anni, pochi ceppi di lievito dell'ambiente sono attivamente coinvolti nel processo di fermentazione e quindi spesso, per garantire una maggiore uniformità al processo, si preferisce utilizzare lieviti secchi attivi. Tra le caratteristiche che il ceppo di lievito deve avere in via prioritaria vi sono l'attitudine a compiere una fermentazione completa anche in presenza di elevate concentrazioni di alcol etilico e di sostanze polifenoliche ed una buona resistenza alle elevate temperature. Durante il riempimento della vasca di macerazione si può effettuare anche la correzione dell'acidità, in quanto i lieviti lavorano meglio con un pH relativamente basso, mentre alcuni batteri come quelli acetici e lattici trovano condizioni più favorevoli di sviluppo a pH più elevati. L'aumento del tenore in zuccheri si effettua se necessario con aggiunta di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato. Una tecnica alternativa prevede l'eliminazione di una parte dell'acqua del mosto per osmosi inversa o evaporazione sottovuoto. I risultati sono molto simili, ma questi ultimi metodi sottrattivi permettono di rispettare gli zuccheri naturali dell'uva. È evidente che oggi, sempre per effetto del global warming, si può constatare nelle uve di qualità, con un'adeguata maturità fenolica, piuttosto che una carenza, un eccesso di zuccheri. Quindi le necessità di arricchimento risultano essere di fatto sempre meno frequenti. Oggi l'ispettore della forestale Dario Di Gallo per la rubrica dei grandi alberi ci porta in Valaupa, sopra Moggio, per farci incontrare un faggio secolare. Oltre l'abitato di Moggio Udinese si dispiega verso nord la Valaupa, posta in un'area di transizione fra le Alpi Carniche e le Alpi Giulie, è caratterizzata da un paesaggio assai originale, che miscela le caratteristiche aspre del paesaggio prealpino con la maestosità di quello alpino, qui rappresentato al meglio dalle magnifiche vette del gruppo Sernio-Grauzaria, intervallando alle belle borgate del fondovalle, prati, coltivi, estese foreste e limpidi corsi d'acqua. Fa parte del territorio anche la splendida riserva naturale della Vallalba, lembo più occidentale del Parco Naturale delle Prealpi Giulie. A completare la bellezza e varietà della natura, la particolarità dell'antico paesaggio culturale, composto da una miriade di borgate, ancora in parte abitate, adagiate su piccoli pianori dove gli uomini del passato hanno ricavato il loro spazio vitale. Dordolla conta circa 50 abitanti, una bella chiesa, un cimitero, un centro culturale e un'osteria con alimentari. È la borgata più grande e vitale della valle, nonostante il fatto che le case e il labirinto di ripidi e tortuosi vicoli che la compongono siano accessibili solo a piedi. Le auto restano fuori dal borgo. In cima al paese, nell'ultimo gruppo di case denominato La Fratte, un vero balcone sulla valle, troviamo un magnifico esemplare policormico di Fagus silvatica, il nostro faggio, l'albero principe delle montagne friulane, con una circonferenza che sfiora i 5 metri e un'altezza di 32, è posizionato in un idilliaco prato arborato dominato dalla vetta simbolo della valle, la creta grauzaria. Il colossale fusto dell'albero si appoggia in parte ad un gruppo di rocce che ne cingono elegantemente la base, in contrapposizione alle possenti radici che fissano al suolo l'enorme chioma. Poco più a monte troviamo anche uno splendido esemplare di noce. La visita al luogo, data la quota modesta, può essere svolta in qualsiasi stagione, ma l'inizio di primavera e l'autunno donano la vista allo spettacolo cromatico più bello. Le foglie dal lucente verde latteo o i toni caldi dal giallo al cremesi renderanno questa gita indimenticabile. Roberto Zotter, per la rubrica della gastronomia, ci parla della Lubianska, una nostra Wiener Schnitzel. Una cotoletta, cioè una fettina di carne impanata, assume curiosamente nomi diversi di città al variare della ricetta. È milanese e viennese se è semplicemente impanata. La cotoletta alla milanese è esclusivamente di vitello con l'osso, sia spessa sia sottile, cotta nel burro chiarificato, mentre la Wiener Schnitzel invece è solo sottile, senza osso ed è prevalentemente di maiale, talvolta così grande che è chiamata orecchia di elefante. E bolognese invece si è anche coperta da prosciutto crudo e scaglie di parmigiano, finita al forno con poco brodo caldo e pomodoro e volendo anche due scaglie di tartufo sopra. E palermitana se passata solo nel pane prezzemolo e poi cotta alla piastra. C'è poi la cotoletta farcita di formaggio e prosciutto, che può anche essere di pollo, il cosiddetto cordon bleu, piatto che non è francese ma pare sia nato a Briga nel canton vallese svizzero. Anche noi abbiamo un cordon bleu locale, però in versione extra large, la Ljubljanska o Lubianska, due grandi fette di vitello o di lonza di maiale che sono farcite con prosciutto cotto e formaggio pasta fusa, successivamente infarinate, passate nell'uovo sbattuto, impanate e fritte. Una leggenda la fa nascere a Capodistria e non a Lubiana in onore della visita del principe Ferdinando d'Asburgo, ma in realtà è un piatto abbastanza recente, apparso in testi di cucina solo dopo il 1949 e probabilmente è una rivisitazione locale della popolare Wiener Schnitzel. Oggi la Lubianska è una ricetta della cucina tipica locale di Gorizia e Trieste che condividiamo con la Slovenia e la provincia di Vas in Ungheria. Recentemente molte trattorie servono la Lubianska anche in versione alla griglia, non fritta. In Croazia troviamo la Zagrebačka, che è una Lubianska di Zagabria con prosciutto crudo al posto del cotto, cotoletta che in Serbia è invece nota come Karađorđeva Schnitzla. Per realizzare a casa una Lubianska di maiale, prendete una fettina larga di lonza e battetela leggermente, salatela e pepatela. Mettetevi sopra una fetta di prosciutto cotto e una di fontina. Coprite con un'altra fetta di lonza, sigillando bene i bordi, passate nella farina, nell'uovo sbattuto e per ultimo nel pangrattato. Friggete in abbondante olio di semi facendolo dorare da ambo i lati per il tempo necessario affinché risulti croccante. Scolate su carta assorbente e servitela con insalata, patate in teccia o con dei chifei di patate fritti e magari accompagnando con uno spicchio di limone, un cucchiaio di salsa tartara e uno di Aivar, la salsa di peperoni. Buon appetito! Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi in calo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 18,50 e 18,70 euro il quintale, va esclusa. Il frumento tra 20 e 50, l'orzo peso specifico 62,65 tra 18,50 e 19 euro e la soia tra 42,70 e 43,20. In leggero movimento il comparto dei bovini da macello, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,10 e 3,60 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,40 e 3,10. Prezzi invariati nel settore dei vitelli da ristallo, con i blueberry gamaschi che vengono quotati tra 6,20 e 6,80 euro il chilo, IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 5 euro, i frisoni fra 2,20, i bruni alpini fra 1,50 e 1,70. Quotazioni discordanti nel comparto dei suini, con dinamiche rivalutative per i dattonzoli di 30 kg quotati franco partenza dall'azienda a 4,45 euro il chilo, IVA esclusa. Nel settore dei prodotti caseari, la Commissione Camerale di Pordenone Udine ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 47,50 e 50,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Stabilità per il prosciutto di San Daniele, lo stagionato di 16 mesi, viene pagato con osso fra 13,50 e 17,50 euro il chilo IVA esclusa, quello di sossato fra 18 e 21,50. Con il previsore dell'ARPA, Sergio Nordio, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Febbraio si è presentato con temperature medie molto elevate. Nelle prime due decadi, sui monti, in quota, i valori sono stati di quasi 5 gradi più elevati rispetto alla norma, in pianura di 4 e sulla costa di circa 3 gradi. Queste differenze sono dovute alla presenza di masse d'aria miti di origine tropicale e condizioni atmosferiche che hanno favorito l'inversione termica nei bassi strati. Il freddo e la bora sono i grandi assenti di questo mite inverno. Dopo il 20 gennaio, quindi, da oltre un mese, non si sono registrate giornate con bora forte. Venerdì, l'ingresso di una marcata depressione atlantica, accompagnata da un fronte con caratteristiche quasi autunnali, ha provocato precipitazioni anche molto intense sulle prealpi, dove localmente sono caduti anche più di 200 mm, ed in genere su tutta la zona montana sono state misurate in molte località più di 100 mm. Sono state intense nevicate, soprattutto in quota, dove gli accumuli di nuova neve fresca hanno superato anche un metro, mentre sulla costa lo scirocco ha toccato gli 80 km orari. In questi prossimi giorni proseguiranno a esserci sulla regione ancora correnti meridionali a tratte molto umide, e martedì si approfondirà una nuova depressione sul Mediterraneo occidentale. Tali condizioni favoriranno tempo instabile, in genere poco frequente con queste caratteristiche alla fine dell'inverno. Domani il cielo probabilmente rimarrà nuvoloso coperto, con probabili piogge sparse dal pomeriggio sera e nevicate oltre 1000 metri circa. Martedì e mercoledì l'approfondimento della depressione sul Mediterraneo manterrà ancora cielo da nuvoloso coperto, con piogge sparse intermittenti in genere moderate, localmente un po' più abbondanti, e probabilmente soffierà bora moderata sulla costa. Con l'afflusso di masse d'aria più miti, probabilmente la quota neve si innalzerà dai 1200 fino ai 1600 metri circa, e le temperature potrebbero risalire, nei valori massimi, fino a 16 gradi su pianura e costa, intorno a 8-10 invece i valori minimi, comunque valori che sono ben al di sopra della media. Giovedì potremo avere condizioni un po' più stabili con variabilità, ma dall'Oceano Atlantico potrebbero rapidamente avvicinarsi altri fronti. Tali condizioni quindi rendono decisamente necessario seguire quotidianamente l'evoluzione meteorologica. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Clara San Roman al dinote un buon anno, ovvero chiaro, sereno il giorno di San Romano, il 28 febbraio, denota un buon anno. Coordinamento tecnico di Daniel Apposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.